Questa notte Maria ucciderà una stella, la sua stella più bella. E poi l'innamorata colpevole scapperà via, oltre il cielo di maggio, verso la ferrovia. E un bell'uomo, sotto a un ombrello nero nero, muoverà la sua mano, la porterà sul suo treno, la darà alla città dei mercanti, la rivenderà per sei monete lucenti. E Maria, Maria, tra il deserto e le lacrime partirà via, per le case di fango, i diamanti sprecati e la malinconia. Vi dirà: sono la figlia del vento, eccomi qua. Lavorerà in un bordello sepolto a Notre Dame. E le voci e le voci sulla ragazza del mondo vicino attireranno clienti da tutto l'impero. Ed il re, anche il re, vorrà avere il suo cuore soltanto per sé. Le darà la rosa più bella che c'è. Ma Maria, con l'amore nel cuore se ne andrà via, sopra il picco del sole triste di nostalgia. E lassù, da lassù, sopra il sogno e la luce si butterà giù, tra lo stagno e la croce di una stella che ormai non c'è più.